L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mi chiama mia moglie, mi attacca la pippa su un problema sul lavoro. Dicamo, te richiamo tra un'oretta e mezza che mi sto sentita a zanzara. I vaffanculo bruciate sono sprecati, è stato un giorno senza parlarmi. Annata a fanculo te e Parenzo. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, qualcuno ha cominciato a dire, caro Parenzo, sì, che è strano che non sia saltato il parabrezza del camion, di questo camion... che ha ovviamente, come tutti sapete, ucciso donne, uomini, bambini, eccetera eccetera, a Nizza. Ti faccio sentire un signore che si chiama Panella, Carlo Panella. Il parabrezza non saltato è strano. Senti, perché cominciano naturalmente le dietrologie più incredibili anche su questa vicenda qua, eh? Io non me ne intendo, non sono un esperto di parabrezza, ma 20-30 colpi di mitra, sventagliate di mitra contro qualsiasi, scusa, parabrezza dovrebbero farlo saltare. Ora, sarà un elemento che verrà fuori dall'inchiesta. Non so se il camion è stato modificato, se il camion era un camion blindato, se si possono affittare camion blindati. C'è una cosa strana. Scende in campo anche Mandarà, caro Parenzo. No, scende in campo anche Mandarà. Panella è una persona molto seria che io conosco, un bravo giornalista, sì, serissimo, sì, riconosce molto l'Islam. Sentire dopo Panella quel cialtrone patentato che Mandarà, francamente. Allora, Mandarà dice colpi su tutto il parabrezza, ma non nella zona di guida. Che vuol dire? Cosa? Sono stati gli israeliani, probabilmente, no? Aspetta. No. Questa qui è la fotografia che ritrae il camion, probabilmente quando ormai tutto era finito. Notate che c'è un gran numero di colpi, cioè di segni di colpi di arma da fuoco sul parabrezza. Però c'è una cosa molto strana, che proprio in tutta la parte relativa al posto di guida, che nella foto vedete segnata con la freccia rossa, non c'è neanche un buco. Poi non si capisce bene cosa vogliono dire con queste cose, però dice, cretino, come mai non c'è, dove era il guidatore non c'è un buco, come mai, forse l'hanno voluto salvare, forse è tutta una messa in scena. Sì, come Kennedy non è morto, l'11 settembre non c'è mai stato, gentaglia. Salvini scatenato su Radio Padania, sentite, i soldi che l'ISIS guadagna con i barconi vengono reinvestiti nei camion. La guerra si combatte non solo con gli aerei, con i soldati e con le bombe, ma anche in maniera economica, tagliando i finanziamenti ai terroristi. Perché ogni barcone sono milioni e milioni di euro che finiscono nelle casse del terrorismo, che quei soldi poi li reinveste in camion che ammazzano la gente, in fucili. Poi in realtà non si sa un cazzo ancora, perché sembra che quello abbia detto all'Akbar mentre falciava le persone. Forse non è vero, non ci sono rivendicazioni, eccetera, eccetera. Questo è strano. Allora, Alfano si inventa la Kar Jihad. Ma ti rendi conto che uno dice la Kar Jihad? Cioè, il ministro degli interni dice la Kar Jihad. Io vado ai matti, la Kar Jihad. Bah. Il riferimento alla Kar Jihad era già insito nei proclami del portavoce dell'autoproclamatosi Stato Islamico. Forse Alfano fa riferimento al fatto che al-Baghdadi avrebbe detto una volta: utilizzate tutti i mezzi possibili, sì, per colpire l'Occidente. Ha ragione. Cioè anche i camion, anche le macchine, anche gli autobus. Mamma mia, quante parole inutili oggi. Quante parole inutili. E che inutili. Vuoi fare? Ma perché quante inutili, parole sai, inutili? Che lo sgomento. No, per esempio, terrore, senti, ti faccio ascoltare una cosa. Sì, vabbè, però non cominciare pure tu perché mi dai fastidio. Meli, la giornalista, quella del Corriere, con quello della Lega Fedriga, no? Beh, Maria Teresa Meli. No, perché dice la Meli, che dice che forse è anche colpa nostra. Perché con non chi si è che combatte con Fedriga, ma mi tocca dare ragione a Fedriga. Cioè, ha ragione. Fedriga della Lega Nord, si ha ragione lui. Fedriga della Lega Nord. Guarda che la signora Meli dice che forse anche è colpa nostra, perché non si sentono europei integrati. E bello, ma allora pigliatela con la Meli, aspetta. No, vabbè, aspetta. Forse c'è un problema anche dell'Europa. Se noi europei non siamo riusciti a farli sentire europei, forse abbiamo sbagliato anche noi. No, è sempre colpa degli altri, No. Io dico forse. No, vabbè, ho capito. Tanti non si sentono. C'è gente che vive il dramma, gente che ha difficoltà economica, gente che non si sente, però non è che vanno in giro ad ammazzare le persone ma urlando all'Akbar. Si chiamano terroristi. Allora, io senza sapere un cazzo, perché non sappiamo niente dalle indagini, niente, posso dire che mi sembra strano il fatto. Molto strano, comunque i francesi sembrano apparentemente degli idioti, eh? Quando si avvicina un camion, cioè i gendarmi controllano questo camion e dice: sì, sono qui per vendere gelati, che è un camion piuttosto lungo questo qua, e sembra che lo abbiano fatto passare, perché non sarebbe consentito entrare, sì, in quelle zone. Sì, perché sennò avrebbe dovuto sfondare un posto di blocco, cioè, praticamente. Questo gli ha detto: sto vendendo dei gelati. E invece era il, diciamo, terrorista, comunque insomma l'assassino di queste persone. Cioè, adesso si può dire sommessamente, senza sapere nulla, che forse sono degli imbecilli? Si può dire o non si no, può si dire? No, si può dire che hanno abbassato il livello di guardia. Ma non lo so, ma europei, cazzo, ma non puoi far passare uno dopo avergli detto che ti sta semplicemente detto vendo i gelati. Ma dove stiamo? Cioè, ma siamo impazziti. Però ragazzi, il top di oggi viene raggiunto da un signore che è mi risulta essere un responsabile di Alleanza Nazionale, attenzione, cioè di Fratelli d'Italia, scusa, perché non esiste più. Non questo, esiste. Questo signore di Fratelli d'Italia è il partito della Meloni, no? Allora, invito la signora Meloni ad agire molto molto velocemente, però, molto molto velocemente, perché questo qua è il responsabile di una provincia, cioè è come se, che ne so, no? Una specie di... come si chiamava ai tempi del fascismo? Il segretario, il no, povertà. Sì, ma ancora più grave. Il sì, comunque, questo qua scrive, si chiama Minutillo, Francesco Minutillo, ed è il RAS di Forlì, di Fratelli d'Italia. Scrive: oggi vorrei poter essere sincero, mentre i cani islamici ci uccidono e ci sterminano, noi pensiamo a fare leggi perché i froci si possano sposare e ci scandalizziamo se un negro viene accoppato dopo aver aggredito un italiano. Pazzesco. E la magistratura indaga ed arresta i bravi italiani e via ad accogliere finti profughi a braccia aperte. Che paese di merda, che continente di merda. Solo un nuovo manifesto di Verona contro islamici e negri, si riferisce ad una cosa del fascismo, anzi della Repubblica Sociale Italiana, ci può salvare. Nuove leggi razziali a tutela della cristianità. Ecco nuove cosa leggi dovremmo razziali. Sì, ecco cosa dovremmo fare. Ma gli italiani, popolo bue, non lo faranno neanche per colpa. Anche per colpa della nostra schifosa costituzione scritta dai maiali partigiani. Questo è un signore di Fratelli d'Italia a Forlì. Allora, come sapete, io non ho proprio un'idea buonista della società, sono per Trump, eccetera, eccetera, sono durissimo sull'immigrazione clandestina, non penso che sia la migliore costituzione, ma io sono un conduttore radiofonico, mica faccio il responsabile di Fratelli d'Italia a Forlì. Per cui uno che dice che i froci, in senso dispregiativo, si possono sposare, noi facciamo delle leggi, mamma così, mia, ci scandalizziamo se un negro viene accoppato, eccetera, che eccetera, schifo, assieme a Meloni o caccia questo oppure non c'è più religione, Ma che cazzo me ne frega a me del traffico che sono in giro a piedi a cercare i Pokémon? La Zanzara. Allora iniziamo subito con i numeri di telefono, con gli ascoltatori, anche oggi, soprattutto oggi, soprattutto oggi. Luciano, provincia di Lucca, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi, dimmi. Ti voglio dire una cosa, visto che questi li fanno sempre i cazze, oppure ammazzano anche nelle rapine o compagnia e perché non possiamo cominciare a rispondere anche noi? Quindi se cioè, a rispondere parte, contro chi, scusami? Comincia a fare come Charles Bronson e cominciamo a sparare nel mucchio. Sì, ma nel mucchio, scusi, islamici. Cioè, islamici accoppati così. Cioè, e come fanno loro? Loro cosa fanno? Ma veramente Charles Bronson non è che accoppava nel mucchio, tra l'altro, nel famoso film che tu citi, nella serie che tu citi, beccava per strada. Lo faremo un pochino più mirato. Cioè, ma non ho capito. Ci sono gruppettini che spacciano, quelli che rubano. Ah, tu dici, vado in una piazza di spacciatori neri, negri, come diresti e tu. E ne facciamo fuori tre o quattro. E ne facciamo tre o quattro così. Anche gli islamici, quelli convinti, stanno nelle famose loro moschee qui vicino, fuori. E che facciamo? Ammazziamo la gente con i mitra nelle moschee? E io comincerei anche noi a rispondere. E allora, se abbiamo le palle, se no, scusiamo sempre. Scusi. Sì, penso di non aver sentito bene. Non sei d'accordo, Parenzo. Ma scusa, Davide, ma hai sempre il cuore che funziona male, no? Ho il cuore che non posso urlare, funziona male. Ah, non però può urlare. Vabbè, adesso però non esagerare. Ho il culo che il cuore mi funziona bene. Ho il cuore, non le funziona la testa, vedete. Ho capito bene. No, la testa, ascolta, la testa, il pene, mi funziona tutto bene. Guardi, siccome le due cose coincidono è probabile che non le funzioni, siccome le due cose si sommano, sono la stessa cosa. Vabbè, allora. Credo di non aver sentito bene, lui dice di andare a sparare nelle moschee a caso, questo ha detto signore? Sì, rappresaglie. Ho sentito bene, posso chiedere se ho sentito bene? Sì, aspettiamo fuori, perché dentro forse... Comunque cominciamo anche noi a fargli fare un po' la strizza, che prendessero un po' la strizza anche loro con qualche attentato fatto dai famosi così oramai in estinzione. Ma lei con quale faccia tornerà a casa stasera da una famiglia che l'hanno ascoltata? Vabbè, ha detto che dobbiamo fare delle rappresaglie. Eh sì, non ho capito bene che tipo di rappresaglie, perché le rappresaglie le possiamo... Cominciamo a sparare anche noi. Ma che vuol dire sparare? Cioè, andiamo... Tu hai detto... Chi? No, ha fatto due esempi. Andiamo in qualche piazza dove spacciano e ammazziamo qualche nero spacciatore. E andiamo dentro una moschea. Dove sappiamo che qualche moschea, tanto lì, ma stanno all'odio e che poi viene fatto. Fuori da una moschea e spariamo fuori da una moschea così. Cominciamo anche noi. Scusa, però, Luciano, posto che questa cosa qui abbia un senso, non ci possiamo mettere, praticamente lo imitiamo. Imitiamo i pazzi. Non ci possiamo mettere come loro ammazzano e non si subisce. Allora, cioè, la legge del taglione. Qualcuno può darsi che abbia il coraggio di sacrificarsi, si fa esplodere anche ma perché perché ci dobbiamo ridurre come questi qua? Scusami. Perché ascolta, tanto se non ci difendiamo questi qui fra 20 ma anni. Questo qui è il classico cretino che è bravo a dire queste stupidaggini alla radio, ma poi è un coniglio che non avrebbe neanche coraggio di dirle in faccia queste cose. Se fossi questo vicino. Se offendi subito, cretino, Parenzo. Lei è il classico coniglio. Con due dita ti salto per aria. Lei è il classico coniglio che dice queste cose alla radio, ma non avrebbe coraggio di andare a dire davanti a una moschea, perché non avrebbe colpa per fortuna. Ascolta, forse io prima o poi avrò il coraggio di farlo. Senti un po'. Cioè, non ho capito. Tu che... Aspetta, questo è interessante. Cosa vorresti fare, Luciano? Se trovo qualche amico, ci organizziamo. Cioè, tu vorresti fare una rappresaglia, andare fuori da una moschea e sparare? Lancio un appello. Qualcuno anche di quelli famosi, su che telefono ogni tanto, che dice che fanno gli sbruffoni, quelli della Lega, mi contattino. Vediamo. Ma per fare cosa? La polizia. Cioè, ma non ho capito. Hai armi, fucili o no? Non te lo posso dire. Ma come non me lo puoi dire? Hai armi, fucili? Ma allora, scusa, fai tanto il gradasso e poi... No. Ascolta, vai sul sicuro. Fai conto che sei affermativo. Vabbè, ma diciamo, hai armi e fucili perché forse fai il cacciatore, non so che cosa fai. Comunque sono sempre stato cacciatore, sì. Hai armi e fucili a disposizione. Allora, vorresti andare? È inutile che questa conversazione venga segnalata all'autorità competente. Vorresti andare fuori da una moschea e sparare contro gli islamici per rappresaglia, giusto? Fuori, dentro, cominciamo a fare qualcosa anche noi. Cominciamo a fare qualcosa. È giusto segnalare questa chiamata al nucleo operativo della polizia. L'appello a chi dovrebbe, scusa, a chi si dovrebbero rivolgere? La polizia, la dico. No, vabbè, questo è un altro discorso. A chi lo vorresti fare l'appello, Luciano? Non ho capito. Ha tanti amici che pensano come me. Cioè, non lo dici dire. Chiamatemi, fatevi vivi, che io troviamoci, organizziamo. Cioè, prendete la rappresaglia contro gli islamici. Cioè, siccome loro ammazzano innocenti, anche noi dovremmo ammazzare innocenti. E dovremmo fare a questo punto, se no è troppo facile. Sempre loro ammazzano, cosano. Ma dobbiamo ammazzare innocenti? Oppure, secondo te, chi va in moschea comunque un po' è complice? Penso che c'è la coda di paglia, che qualcosa nella loro testa c'è questo, cioè intanto anche quelli che mandano a dire hanno fatto bene, sono martiri, sono, cominciamo anche questi qui, anche le famiglie di questi qui, che sono sicuro sanno tutto e lo sanno, e infatti i belgi ci fanno una figura di merda, i francesi lo stesso. Ho capito, comunque fai un appello, andiamo ad ammazzare fuori dalle moschee. Va bene. Sai, se Olanda avesse le palle cosa dovrebbe fare? Tirare giù le bandiere accannonate, tutte. Tirare giù? Tutte le bandiere a Parigi, le bandiere. Le balie, tutte giù, accannonate. Tutte giù, accannonate, accannonate. Seconda, e facciamo, da un esempio un po' forte, e rimandare tutti di là dal mare. Vabbè, Carmine Roma, vai. Carmine! Buonasera Giuseppe. Oh Carmine, che c'è? Dimmi. Stasera no, sono abbastanza incazzato Giuseppe. Che è successo, amico dopo mio? Quello che è successo ieri, Giuseppe. Tu lo sai, la mia materia prima è la figa, però... Vabbè, quella è un altro discorso. Quello è un altro discorso, ma stasera volevo parlare di tutti questi negretti e basta. Già la quali negretti? Due. Quali sono questi negretti? Tutti, musulmani, tutti. Ma non è uguale negretti e musulmani, sono due allora, cose... Allora, dimmi, facciamo, dimmi. Dobbiamo iniziare a fare distinzioni. Magrebino, che cosa cambio? Pakistano, tutti questi, sono tutti islamici, questi sono pericolosissimi. E dunque, che bisogna fare? Basta, chiudiamo tutto, a Rimbala lasciamo meno mare, non mi interessa, ormai basta, qui ci dobbiamo chiudere, se no finisce il bordello, non è possibile, guarda che arrivano pure qua. Dove qua? Ma già è... A qua da noi, a Roma, a Milano, cioè non scherziamo ragazzi, le cose sono serie. Ma le cose sono serie, questo lo sappiamo, dunque? Dunque che cosa? Basta, lasciamole no mare, portiamole indietro. Lasciamoli no mare, fermo lì. Come fermo? Pronto al Circo Togni? Ah, la zanzara? Beh, fa lo stesso. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La zanzara. Non capisco perché stupirsi del fatto che Natania abbia scelto un uomo come Parenzo. È il classico uomo, non sarà bellissimo, però è affascinante, intelligente, arguto. Io starei ora ad ascoltarlo, quindi Parenzo è un figo. E dai, David, non è che ti devi incazzare. C'hai la compagna che è una bella figa. Non capisco cosa ci sia da arrabbiarsi, anzi, prendilo come un complimento. Magari ci avessero tutti Natania. Allora, Don Pasquale Giampaglia, che è un sacerdote in provincia di Isernia, dopo la strage di Nizza ha detto: con questi islamici, un sacerdote, con questi islamici non se ne può più. Per dovere di ufficio ho dovuto sempre parlare di tolleranza. Ora mi sono stufato. Mi definite razzista? Sono felice. Non mi vergogno a dire che dopo la strage a Nizza, se fossi americano, voterei Donald Trump. Chi lo dice? Questo prete ha promesso di buttare fuori dai confini degli Stati Uniti tutti i credenti in Allah. Lo so che quello che dico può scandalizzare i perbenisti di turno, ma con questi islamici non se ne può più. Oh, Allora c'è anche Paola Ferrari, che dice no panico, no guerre civili, ma azioni condivise subito. E vabbè, d'accordo. Però dice la prima cosa la prima cosa è sospendere passaporto europeo a magrebini arrivati negli ultimi 20 anni, figli compresi. Sospendere passaporto europeo a magrebini arrivati negli ultimi 20 anni, figli compresi. Perché magrebini proprio, non capisco. Ma non lo so, magrebini, che cazzo ne so. Allora, Roberto da Milano, vai. Buonasera. Senti, volevo dire, visto che non riusciamo ad andare d'accordo con questa gente qua islamica e non possiamo vivere nel terrore che il nostro vicino di casa così bravo improvvisamente impazzisca, prendiamoli e rimandiamoli al loro paese senza fargli del male. Li prendiamo e li mandiamo al loro paese, tutti. E se quelli bravi poi ci accusano di essere razzisti, gli diciamo no, dovete prendervela con quelle teste di cazzo dei vostri paesani. Cioè, non ho capito, tu stai dicendo comunque buttiamo tutti gli islamici via, sì, cioè rimandiamoli tutti via, indietro. Non buttiamoli via, mandiamoli via. Cioè, tutti perché quelli... io non posso vivere nel terrore che il mio vicino di casa domani impazzisce e fa una cosa come quella di ieri sera. Sì, hai dunque, capito? L'idea è questa. Non è giusto, no, non no, è perché giusto vivere così. Allora, tu dici una cosa molto semplice. Chiunque abiti in Italia, sia no, residente in Italia, di religione islamica, deve essere cacciato. Giusto? Non cacciato, deve essere espulso, non cacciato. A parte che ci sono quelli italiani, cioè ci sono fa quelli niente, italiani. Non me ne frega niente. Cioè e chiunque si dichiara islamico, razzismo, non è, ma non è che c'è scritto sulla carta d'identità che sono islamico. Se ci accusano di razzismo, dobbiamo rispondergli che se la devono prendere con quelle teste di cazzo dei loro paesani. Sì, ma ho capito, capire, ma ho capito, perché ma la colpa non è nostra, ma io non riesco a capire, scusami, fammi capire una cosa perché non la capisco. Allora, se ad esempio Donato da Varese, per dire un pazzo della situazione, no? Impazzisce, cosa peraltro probabile, o Mauro da Mantova, e cosa si fa? Dove lo si manda? Non ho capito. Se Donato da Varese ma che c'entra? Cosa... Lui sta dicendo un'altra cosa, però non sottovalutare la cosa. Di un'altra cosa, Parenzo, cioè, non so... devi dire. No, non sottovalutiamo il fatto che al di là del non è ancora chiara se c'è un'organizzazione dietro, eccetera, eccetera. Comunque diciamo che l'Islam non è che non c'entra, c'entra pure questa volta, cioè, anche stavolta pare che c'entri l'Islam, cioè, sembra sì, che c'entri. Però ci sono delle cose strane, ad esempio non c'è stata nessuna rivendicazione dell'ISIS, questo non è mai andato manco una volta in moschea, sembra che fosse... È poco religioso, pare sia no, poco religioso. Questo pare cosa adesso siamo in estate, cosa vogliamo fare? Vogliamo aspettare che qualche pazzo vada in spiaggia col mitragliatore? Dunque tu dici una cosa molto semplice, tutti gli islamici vanno cacciati. Esattamente. Tutti non gli cacciati, islamici. Vanno espulsi. Vabbè, espulsi, cacciati, è la stessa cosa, amico mio. No, non è, che... è diverso. Vabbè, è diverso, è uguale, cacciati, espulsi, che differenza c'è, scusami. Ma facciamo il caso di Donato da Varese che si converte all'Islam, no? Facciamo un caso qualunque. Donato da Varese, sì, che è notoriamente uno squilibrato, si converte all'Islam, d'accordo? Vabbè, che c'entra adesso cosa questo? Cosa facciamo con Donato da Varese con il convertito all'Islam? Siccome lui dice che basta che uno è islamico va espulso, come fai a espellere Donato da Varese? Ma che c'è, beh, quello si è convertito? Non sto dicendo questo, però... È chiaro che non è così, però per adesso i fatti stanno raccontando questo. Va bene, Roberto, la tua ricetta è cacciare via tutti gli islamici. Silvano Rovigo, vai Silvano. Cosa sì, vuol sono dire? Vai, dimmi. Parlo? Sì, vai, dimmi, sì, veloce, vai. La mia esperienza, avevo avuto il figlio più giovane che ha fatto tutta la trafila delle giovanili in una squadra dilettantesca qui della Topolese. Sì, ma è noi che ce ne frega. Quando era nei primi anni c'erano per ogni squadra di tutto il torneo, c'erano 3-4 ragazzi marocchini. Man mano che si saliva negli anni, ogni tanto marocchini, qualcuno di nazionalità marocchina. Di nazionalità marocchina. Allora ogni tanto qualcuno se ne andava, dunque? Ogni tanto all'inizio del nuovo campionato qualcuno se ne andava. Quando sei arrivato alla soglia degli allievi e poi degli juniores, non ce n'era più neanche uno. E così in tutte le squadre della provincia. Ma questo cosa vuol dire? Cos'è questo esempio? Questo vuol dire che man mano che i ragazzini... Hanno ammazzato 84 persone e mi parla dei ragazzini. Hanno ammazzato 84 persone. Quello che mi sono fatto io, e poi se mi permette di parlare le aggiungo un'altra cosa, è un parere mio, conta meno di niente, ma me lo lasci dire. No, ma lei può dire quello che vuole. Certo, quello che ci siamo fatti l'idea è che man mano i ragazzi tentano di integrarsi, interviene la famiglia. Mio figlio ogni domenica pomeriggio, il paese è piccolo, andava Che vuol dire? Che vuol dire? Andava a giocare a calcio, venivano i ragazzi marocchini a chiamarlo ad un certo momento, i ragazzi marocchini giunti alla soglia dei 16 dunque anni, arriviamo non sono più venuti. Sì, ma non ma è un monologo, Silvano, vogliamo andare alla conclusione. A calcio, nei campetti continuavano ad andarci, marocchini contro marocchini. vuol dire che giunti ad un certo limite di età le famiglie fanno di tutto per toglierlo dal tentativo di... Allora? Sento gente parlare di integrazione, io sono abbastanza pessimista su questa integrazione. Benissimo, tutto grazie qua. Piero da Roma, vai. Buonasera Cruciani, buonasera. Dimmi, vai con sto buonasera volevo che dire... mi sta sui coglioni, vai. Allora, volevo dire, siamo in guerra. Vabbè, questa è una guerra. Però, sì, non mi dire allora, però le solite cose banali, dai, forza. No, non dico cose banali, cioè in una guerra bisogna prendere delle decisioni serie. Non possiamo. Quali sarebbero, per esempio, quali sono? Col buonismo alla parenza. Esempio, allora, per esempio? Io vivo a Roma. A Roma c'è un degrado totale. Ieri stavo alla piramide, i rumeni con le bottiglie in mano. Gira le Ma che c'entrano i rumeni con le bottiglie in mano? Che con c'entra... le bottiglie in mano a ubriacarsi, cosa inconcepibile in altri paesi. Cioè, tu dici che c'è troppo lassismo in Italia. C'è veramente, però in Italia. Non c'è sovranità nazionale. Mentre, non c'è però, scusami, l'esempio però è sbagliato perché la Francia in realtà invece è uno stato molto solido. Eppure gli attentati da noi che siamo così lassisti non ci sono, mentre in Francia ci sono. Cioè, come la spiega questa cosa? Io credo che in Italia ci siano proprio perché noi facciamo comodo a questi personaggi. Vabbè, questi comodo che vuol dire a chi? Fanno cioè facciamo il nostro lassismo, il nostro buonismo fa comodo a questi personaggi. Questi Vabbè, Piero, ciao, non ho capito un cazzo. Iside da Chiasso. Chi è Iside? Ciao Iside. Ciao. Dimmi, allora, io sinceramente ma sbaglio siamo... sbaglio o stai o il tuo nome mi ricorda qualcosa, Iside? Sì, ci siamo già sentiti, però ancora non mi hai dato il piacere di incontrarci. Vabbè, amica mia, vabbè, ho capito. Ma scusa, Iside, non eri quella che lavora a Maxim? Sì. Ah, la famosa puttana del Maxim, dalla mia camera dal Maxim. Ah, mi stai chiamando dal Maxim e dalla tua camera. Cos'è il Maxim? Sì, il Maxim è un famoso bordello di Chiasso, se non Ma io dico, ma scusate, non adesso è per carità. È un posto dove soddisfiamo gli uomini, dai. No, ma adesso per carità, va benissimo tutto. Fatemi solo dire una cosa, alle 19:28 del venerdì, dire una cosa. Se è diventata il punto di riferimento anche delle prostitute, cioè diciamolo francamente. Ma qual è il problema? Scusa, ormai sono orgoglioso. Normali nelle altre trasmissioni di Radio 24, solo 24, ma anche nelle altre radio è raro, rarissimo che una simpaticissima prostituta prenda il telefono e dica ciao Giuseppe, ciao, ti chiamo dalla mia camera del bordello, volevo dire che ragazzi miei, non è normale. Però io no, è normale oltre no, aspetta, cioè non è normale che una donna che non fa nulla di male, ma al no, contrario, ma non... soddisfa uomini e salva in un certo senso matrimoni non solo Iside, sei una in questo oggi dopo quello che è successo a Nizza eccetera, sei una paladina della libertà. Cioè l'Occidente dove c'è prostituzione, tu sei un esempio classico della prostituzione, c'è democrazia, capito? Negli altri certo. Un uomo che esce soddisfatto non va a pensare di sicuro ad andare a fare una brava la la maggior parte dei terroristi sono tutti sicuramente delle persone insoddisfatte sessualmente, diciamo. Vanno a aspettare le 40 vergini là sopra, quando qua ne troverebbero mai finire. Scusami Iside, tu vai ogni tanto qualche musulmano lo frequenti? Viene lì qualche musulmano? No, stavo per dirti proprio questo, cioè? Che adesso anch'io intendo diventare sotto questo profilo razzista, non intendo più avere musulmani in camera. Ma perché vengono comunque, vengono. Allora, ogni qui tanto ne abbiamo avuti pochi, comunque tutte persone per bene, nulla da dire, però da parte mia è proprio una mia... decisione? Sì, dopo cioè non vado, non scopo più con i musulmani? Esatto, sì. Beh, ma se questi offrono un sacco di soldi, che fai? No, non mi interessa. 1000 euro a botta? Ci stai o no? Non mi interessa, no. Non ti interessa? No, significa no. Che hai fatto un sacco di soldi fino adesso, eh? Aziendale, signora. Ma l'agenda è lì al Maxim. Non c'è agenda. Quelli che arrivano, giusto? Non mi sto capendo più, un attimo, uno per volta. No, l'agenda. Volevo capire dalla signora qual è il ritmo. Fermo, deve essere arrivato un cliente. Fermola. La Zanzara è un programma della Madonna. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Show. Allora, caro David, prima di riprendere con Iside da Chiasso, dal Maxim, oggi simbolo della modernità, dell'Occidente, contro l'attacco alla nostra civiltà e alla nostra libertà, perché dove c'è prostituzione c'è democrazia, dove esiste, che ne dicano quelli che vogliono, la vogliono proibire, che vogliono multare i clienti, beh, gente antiquata, non è talebani, il caso della nostra signora Iside, ma... talebani, Iside non è sfruttata, non sei sfruttata, vero? No, Iside? Iside no, d'accordo. Iside, no. Sei una libera imprenditrice di te stessa o no? Ma diciamo che io ricerco il divertimento alla base, ragazzi, non tutto gira intorno necessariamente ai soldi o a chissà che cosa. Cioè, beh, insomma, lo fai per soldi, non è che lo fai per divertimento, scusami. Ma parzialmente, mi è capitato di non, comunque hai molti apprezzamenti, di non volermi far pagare. Ah, davvero? Da chi? Da chi? Beh, se gli piace. Allora, uno, l'ultimo, forse. Se proprio me lo chiedi, è successo ieri sera. Cioè, ieri sera uno è venuto da te, al Maxime non l'hai fatto pagare? No, siamo stati 2 ore in camera. E perché? Perché mi trovo bene. Ma avete parlato anche di quello che è successo, immagino? No, nemmeno lo sapevamo, cazzo, cioè succedeva in quelle ore. Comunque tu hai deciso, questo avete è interessante. Parlato della riforma alla Costituzione, del sì di Renzi e alla riforma. Hanno parlato delle loro vite, delle loro vite, hanno parlato di sesso. No, magari delle... uno però... Mentre che avete fatto poco in generale. Hanno quindi scopato per 2 ore, dai. Anche capire se in quei contesti, ad esempio, di sesso, se ogni tanto si discute del sì al referendum. Ma io mica ho chiesto una cosa strana. Ma non si discute del referendum, ma là, lo so, dai. Magari la signora Iside... Comunque perché non l'hai fatto pagare, scusami, Iside? Ah, perché non l'ho fatto pagare? Perché mi trovo bene. Perché comunque non tutto gira intorno ai soldi, perché comunque... Dai un consiglio per a Parenzo. Vero... Dai un consiglio, perché il consiglio gli scopa dare? Di più. Cioè, scopa... No, ma guardi, sì, scopa sei incattivito di... col mondo, ce l'hai col mondo, cioè scopa di più. Non ce l'ho con nessuno, signora cara. Le assicuro che va tutto, funziona tutto benissimo. Volevo chiedere, lei voterà sia la riforma costituzionale di Renzi a ottobre o no? Va no, ma non per ma... capire, perché? Ma non lo sa, ma non gli interessa. Tutti gli ospiti allo stesso modo, quindi non è che... Ma io mi ricordo di Renzi per uno un pochino differente da come me lo descrivi tu, quindi sinceramente a tutto sto pensando, a tutto penso quando penso a Renzi, fuorché ai referendum. A che pensi? Quindi scusa. Due punti voterò no. A che pensi quando pensi a Renzi? Lascio stare, ci sono troppe cose che non posso dire, quindi va bene così. Adesso ci vuoi rivelare qualcosa di clamoroso, non ho capito. Cioè, No, non mi azzarderei mai. Però scusa, cara Iside, la decisione che hai preso è molto importante, però tu che sei una puttana anche che non fa pagare quando... che non lo fa solo per soldi. Capita. Adesso, che, capita. Non, fa, che non lo fai solo per soldi. Diciamo una prostituta dotata di non perché per carità, le prostitute hanno cervello, certamente, però tu sei una di quelle che insomma, se si trova bene non fa pagare il cliente. È capitato. Succede? Tu dici io non vado col, ho deciso di non andare più con gli islamici dopo i fatti di Nizza. Sì, questo sì. Questo è importante, questo è importante. Non c'è ombra di dubbio, sì, Parenzo, è questo è molto forma importante. Di protesta. Capito? Una forma ognuno di protesta. Protesta nel proprio settore. Esatto, tu protesti nel tuo. Cara Iside, io ti abbraccio fortissimo e ci sentiamo presto. Vengo al Maxime, verrò al Maxime. Ciao, ciao. Ti aspetto, un bacio, ciao. Io pago, però voglio pagare, ciao. Allora, vogliamo dire una cosa, David, se no la gente poi ci rimane male. Oggi ci fermiamo oggi, Cioè, cosa vuol dire? Che ci fermiamo e riprendiamo quando dovremo riprendere, non lo so. 2 settimane prima del previsto, sì, 2 settimane prima del previsto, per motivi miei, non per problemi tuoi, tu avresti continuato tranquillamente, per problemi no, miei. Vabbè, ma questo c'è. No, ci fermiamo, cioè questa è l'ultima puntata della stagione. E comunque voglio dire che lo spirito di questa trasmissione, che rimarrà vivo dalle 20 in poi, perché dal lunedì faremo un meglio di, cioè faranno un meglio di con il meglio e il peggio di questa stagione. Beh, questa è la buona notizia. E lo spirito di questa trasmissione, qualsiasi cosa accada, resterà vivo per sempre. Ma non è qualsiasi cosa accada alle vostre vite in particolare, non alle nostre. Che alle sono... no, uno sembra che dice le nostre, che no, qualsiasi cosa accada, resterà sempre vivo comunque lo spirito di questa trasmissione. Ma cioè, non... la fiammella. Sì, ma non morirà mai lo spirito di questa trasmissione. E, cioè anche quelli che chiamano e ci dicono che siamo degli stronzi, dei pezzi di merda, sì, anche quelli che lo pensano non ascoltano e dicono che siamo delle teste di cazzo, noi in fin dei conti li amiamo tutti, io in particolare. Beh, li amo, ecco, tutti. Su questo io mi no, io li amo, io li amo, li amo tutti, io perché li odio, ma forse non potrei farne meno. Io no, li detesto, io li penso che mi fanno sentire orribili. Vivo quando uno mi dice testa di cazzo, quando uno mi piglia per il culo, questa cosa qua mi fa sentire un po' vivo. Ma tu sei anche uno a cui piace essere cornuto, quindi non è detto che sia la norma. Comunque ragazzi, oggi ci fermiamo, riprendiamo quando sarà il caso, non lo sappiamo. Come, quando sarà il caso? Riprendiamo quando sarà il caso, ripeto, Si lascia un grande giallo, però sono già convinto. Non c'è nessun giallo. Beh, non c'è nessun giallo, c'è, sì, un grande ci giallo. Fermiamo prima solo per problemi miei, cioè Parenzo avrebbe continuato, se non me la pigliate con lui, non c'entra un cazzo, cioè, avrebbe continuato tranquillamente. Beh, capito? Anche perché altre volte hai fatto anche da solo. Nonostante il fatto che poi alle 20 se ne va a fare questa trasmissione, va benissimo, cioè mi lascia solo dalle 20 in poi, in realtà fino alle 20 e 20. Diciamo, resta, non poi. È per colpa mia. Fino alle 20 e 20, cioè, sì, non è per colpa tua, no, non è per colpa tua. Cioè, ho dei problemi io e giustamente lui li subisce, infatti lui dice ma come, resta ancora varie settimane. No, non vuole. Continuiamo, facciamo. Tanto ormai. Sì, no, devo dire la verità. In questi casi. Diciamo un bordello a cielo aperto. No, vabbè, quindi... adesso non, però, non ridurre tutto questo al bordello, vero, a cielo aperto. Non dai, voglio scherzare, non voglio scherzare. Non c'è nessun bordello. No, ma non, bordello a cielo, non è un bordello a cielo aperto questa trasmissione. Questa è la più bella trasmissione della radio italiana. Perché è una trasmissione libera in cui c'è di tutto. C'è una Iside che chiama dal Maxim. Tu ti rendi conto? Iside chiama dal Maxim per dirci che non vuole più scopare con un islamico. In diretta dal Maxim. Io sono sicuro che lei, che poi ci ho parlato, c'è una prostituta di un bordello svizzero, chiama in diretta per dire io non scopo più con un islamico dopo i fatti di Nizza. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Dai, su. Cioè sono cose emozionanti, cioè non sono cose, ma chiama, non perché la chiamiamo noi, non c'è nulla di costruito. Certo si costruisce qualcosa perché bisogna sempre costruire qualcosa, altrimenti saremmo dei coglioni, sennò che lavoriamo a fare come matti. Però poi è tutto molto molto slabbrato, molto naturale, molto molto, capito? Cioè non c'è, non c'è. Quindi noi chiudiamo oggi sostanzialmente. Ma no, ma chiudiamo, sì, chiudiamo oggi. Cioè chiudiamo la Claire della Zanzara. Allora, da lunedì, in poi ci sarà un meglio di a partire dalle 20. Meglio o peggio, naturalmente. Spesso è peggio a partire dalle 20. Questa è la realtà dei fatti. Però da stasera alle 20:50 si abbassa la Claire. Si tu la abbassi alle 20:20, quella alle 20:23, 20:24. E vabbè, vai a fare il culo. E invece io la abbasso alle 20:50. Per adesso non voglio sentire le telefonate, perché non me ne frega un cazzo. Le telefonate che dicono, eccetera. Cioè non me ne frega di fare Howard Stern, che per una vita è andata avanti in onda parlando dei suoi contratti, dei suoi cazzi eccetera. Potrebbe essere pure una tecnica, ma per adesso non l'ho mai attuata perché non me ne frega niente di fare ste robe qua. Dai, va bene. Allora Enea, provincia di Fermo, vai. Enea provincia Fermo. Di Fermo, sì. No, provincia di Terni, non di Fermo. Terni, qualcuno mi ha scritto Fermo qui, che peraltro non è nemmeno provincia, per cui vabbè. Qualcuno non conosce tutte le province italiane, non è un delitto, io le conosco tutte perché sono malato di queste cose, però Fermo mi sembra che non sia provincia, o sbaglio, è Ascoli, no? Fermo. Comunque, non vabbè, vai, non sai un cazzo manco tu. Niente, non so un cazzo. No, non sai niente, nulla. Volevo sparare la mia cazzata anche in merito a tutte. Ma non devi sparare le cazzate, tu hai la stessa, in questa trasmissione, Parenzo non lo vuole ammettere, c'è l'opinione di Enea dalla provincia di, scusa, di Terni. Sì, su cui però devo dire una cosa su Terni oggi. Allora, l'opinione di Enea dalla provincia di Terni vale come quella del signor Galli della Loggia. Cioè, Parenzo non entra dentro questa capoccia maledetta, vero, che ha. C'hai ragione. Questa roba qui, che Riccardo, io per esempio sto avendo una conversazione messaggi con Riccardo da Roma. Sai Riccardo da Roma? Mitologico, sì, Riccardo. Io lo ritengo al limite del patologico e del malato mentale, ma non importa. Ma che malato mentale? Numero uno assoluto. Mi sta dicendo perché non possiamo fare come faceva l'America durante il maccartismo con gli islamici. Non è che ha funzionato molto il maccartismo, ti volevo dire. Cioè, caro... quello con i comunisti si faceva il maccartismo. Esatto. Dobbiamo. L'America ha fatto le leggi contro il maccartismo e non si possono fare contro l'Islam. Ma tra l'altro è proprio quello che vuole fare Trump, che tu sostieni. Sì, ma non è che io sostengo Trump e tutto quello che dice. Oggi, per questo esempio, è il tuo amico Riccardo da Roma. Sì, sì, una persona che io trovo molto intelligente. Ma molto intelligente. Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Penso e comunque un bagno pubblico ha più cose da dire di Riccardo. Comunque, caro Trump, Trump oggi ha detto, per esempio, secondo me una boiata, cioè che se fossero stati più armate, se le persone là a Parigi, a Nizza, fossero state più armate, ci sarebbero state meno morti. È una cazzata questa roba qui, una puttanata pazzesca, perché non è che la gente può uscire fuori con le pistole. Poi anche se avessero avuto le pistole, che cosa avrebbero fatto? Sparato contro il camion. Ma non è che la gente, uno si può immaginare che la gente esca con le pistole come nel Far West. A casa è un'altra cosa, in un negozio è un'altra cosa. Non è che tutti escono con le pistole nella fondina, cioè non è possibile. Beh, non sarebbe, cioè non sarebbe strano, cioè non mi scandalizza, ma non è possibile. Poi non sarebbe cambiato quasi nulla. Cioè, per cui Trump, secondo me, oggi ha detto una puttanata. Va bene, dimmi, dai. Allora, niente, io dicevo, in pratica, che si potrebbe istituire, non voto per la Meloni, per carità, però si potrebbe istituire un reato di integralismo islamico, chiamatelo come vi pare, e poi imparare dagli israeliani, che gli amici di Parenzo, che quelli convivono con questa gente da anni, e quindi... E magari a questi che fanno questi attentati coinvolgere tutti i parenti di primo e secondo grado e sequestrargli tutti i beni e sperderli nel paese di origine. così loro come... Non ho capito, ma chi dovremmo espellere? Questo è importante sapere. Chi... Tutti i familiari di primo e secondo grado di quelli che vanno a fare attentati. Ma ho capito, ma prima bisogna identificarli questi qua, però. Quelli loro, che... Sì, però quelli che fanno... No, quello di prima vogliono... ha detto un'altra cosa, cacciare tutti gli islamici. Tutti, cioè... è tutto in utopia, insomma, tutti, per carità. Ma però, io non lo so se è un'utopia, quello ha detto cacciare che tutti... Che la casa di quello che si è fatto salta in aria e arrestano i parenti, la madre, il padre, i figli di quello che è del terrorista. Dovremmo usare la stessa cosa anche noi. Vabbè, non ho capito, però, scusami, amico mio, però abbi pazienza. Cioè, se ci fosse un attentato, tu dici cacciamo pure i familiari. Vabbè, d'accordo, si può fare, però fino adesso... Ma prima bisogna identificare la... delle vergini in paradiso, però se sanno che lasciano che la madre che si è comprato un appartamento qui perché vivono da 30 anni qui, noi glielo sequestriamo e li rimandiamo in Marocco, in Tunisia, con la valigetta di cartone come fecero i libici... all'epoca degli italiani, no? Che Enea, ti devo salutare. Giulio da Cremona, vai. Giulio. Pronto? Dimmi. Buonasera, Parenzo, buonasera. Cioè, dai, però parla a voce alta, dai. Mi senti? Mi senti? Dimmi. Allora, non mi ricordo chi aveva detto che avrebbe riportato il terrore nelle nostre città anche con mezzi di fortuna. Sì, devi parlare meglio, sennò ti sentiamo male, Giulio. Non so da dove sei collegato, da quale anfratto sei. Vabbè, dimmi, allora. Forse dovremmo anche interrogarci sul fatto che noi siamo nei loro territori da almeno una decina d'anni, se non di più, e avremmo dovuto portargli la democrazia, avremmo dovuto portare l'ordine. Avremmo dovuto se questi fanno degli attentati con l'autobus ammazzando bambini eccetera eccetera, è anche un po' colpa nostra, cioè dell'Occidente, che è una tesi, diciamo, per esempio di Massimo Fini e di altri. Non è che abbiamo portato la democrazia. Io non penso che questo signore ha sfruttato l'ombra, ma non penso che questo signore come dire, con parico depresso eccetera eccetera, forse islamico, forse no, credente, sì, è sicuramente islamico, non so quanto estremista, però siamo arrivati abbia avuto in mente che ne so, i territori occupati o altre cose, cioè, io non credo, no. Non però lo so, e allora ma perché è un po' colpa nostra, spiegami. Allora ripeto, quando noi andiamo ad occupare degli stati esteri dicendo portiamo la democrazia, la guerra, saranno guerre veloci, portiamo l'odio così, e poi in realtà siamo ancora là. Noi spendiamo un sacco di soldi per tenere là le truppe, di ordine non se ne parla. Abbiamo portato i bombardamenti, la morte eccetera eccetera. Vabbè, ho capito Giulio, ciao. Ma quando dite libero salame in libero stato, con salame intendete salame o intendete Cruciani? La Zanzara. Ragazzi, ho appena inserito nel mio curriculum la voce ascoltatore assiduo della Zanzara. Siamo al top. Allora ragazzi, Giulietto Chiesa è con noi. Giulietto, buonasera. Buonasera. Come stai? Bene. Allora, che idea ti sei fatto di quello che è successo? Perché prima ci ha detto uno, è anche un po' colpa nostra se succedono queste cose qua, cioè questi che coi camion, in questo caso, senza bombe, eccetera, falciano le persone, spari, morti, bambini, eccetera. Cioè, dobbiamo sentirci responsabili di qualcosa? Per me no, però magari tu pensi... Beh, singolarmente nessuno di noi è responsabile di una cosa del genere, singolarmente. Collettivamente si può discutere. Cioè? Perché? No, perché noi abbiamo... praticamente dettato l'agenda del mondo intero e adesso questa agenda non funziona, sembra evidente. Siamo i padroni del mondo, ma non siamo capaci di offrire al mondo intero un'agenda soddisfacente, se no non accadrebbero cose come quella di Nizza, mi pare evidente. Ma scusa, perché cosa è successo a Nizza? Spiegami. Secondo te cosa è successo? Cioè, il terrorismo, l'ISIS, non c'entra niente l'ISIS? Non lo so, non credo alle rivendicazioni, sono tutte palle che ci inventano, che ci raccontano, quindi non so chi è naturalmente, sappiamo che è un individuo, a quanto pare era un individuo solo, si è ammattito evidentemente, penso che sia una cosa normale pensare che uno da solo ammazza più di 80 persone. Cioè non è normale secondo te? Mi sembra non normale, quella del genere, però quello che voglio sostenere è che di anormali è pieno il mondo, nel senso che più passa il tempo, più questa società che imbestialisce la gente, perché così sta avvenendo. Noi stiamo vivendo in una società di competizione, violenta in Vabbè, cui ho capito, però, milioni di persone vivono nella povertà e vedono sui loro telefonini la ricchezza. E questa è una cosa che ha la sua importanza, perché non tutti sono degli economisti come Parenzo, per esempio, e quindi siccome non tutti sono degli economisti, non tutti hanno un'interpretazione della realtà. Cioè io non ho capito bene, tu sostieni che più povertà, che la povertà provoca lo sbrocco. No, non è così banale, questo è banale, non è la povertà che provoca lo sblocco, non è la povertà che provoca lo sblocco, la povertà c'è sempre stata. Quindi non è questa la mia tesi, la povertà c'è sempre stata, solo che adesso la situazione diventa diversa perché, faccio un esempio semplice, banale, 50-60 milioni di egiziani vedono tutti i giorni come viviamo noi e anche se abitano sulla diga di Aswan, perché hanno i nostri telefonini e vedono i nostri film. E questo produce degli effetti psicologici su milioni di persone, probabilmente miliardi di persone, che non sono controllabili con i nostri criteri, capito? Noi viviamo a Milano tranquilli o a Roma, siamo tutti ben vestiti, abbiamo tutto a posto. Ma questo è stato manovrato, secondo te, da quello che si può capire, è stato manovrato da qualcuno non lo so, io non so. Tu hai l'idea dell'Europa... Qualcuno è in grado di dire questa cosa? Se qualcuno è in grado di dire, ce lo spiego. No, ma certo. Io non sono in grado però, di secondo dire. Te, c'è un piano per no? Tu hai sempre avuto questa idea. C'è qualcuno che sta manovrando da dietro per creare una specie di Europa fortezza, di un'Europa dove siamo tutti più controllati, eccetera. Sì, questo fa parte di questo piano? Sì, c'è anche questo. Questo c'è, io l'ho dimostrato a più riprese, che c'è un disegno destabilizzatore dell'Europa che evidentemente parte da diverse centrali politiche che sono per esempio quelle che guidano l'ISIS, il servizio di di intelligence dell'ISIS è interamente stato costruito dagli Stati Uniti d'America, da Israele, dall'Arabia Saudita, dalla Francia e dalla Gran Bretagna. Che dici, Parenzo? Non ho capito. Non mi posso arrabbiare, però voglio semplicemente capire tutte queste cose che Chiesa sta dicendo. Dove, da che cosa sono comprovate? Cioè, ma da centinaia di documenti, ma centinaia documenti di documenti, quali? Solo chi non legge niente, cioè, solo chi non legge il mainstream può rendersi conto di questo, ma siccome la gran parte della gente legge soltanto il mainstream, non lo sa, ma ci sono centinaia di documenti, migliaia di documenti. Dunque questo aspetta un attimo, questo attentato potrebbe essere frutto di questa strategia, diciamo. Di questa... No, io non ho detto questo. Potrebbe. Possono essere diverse azioni simultanee che agiscono, che esista un complotto, diciamo così, per trasformare l'Europa in un fratello minore degli Stati Uniti, io non ho mai avuto dubbi e ci sono molti elementi per sostenere. E anche Israele farebbe parte di questo... Sì, naturalmente, Israele ha aiutato i ribelli dell'ISIS, Israele ha aiutato l'Arabia Saudita, sappiamo tutto questo in modo assolutamente incontrovertibile, l'hanno perfino dichiarato. Parenzo lo nega fortemente. Perché legge soltanto il mainstream, sì, sfortunatamente. Leggo solo il Topolino. Se Parenzo leggesse anche le altre cose Topolino, che non sono sul mainstream, cioè sui giornali quotidiani che tutti i giorni troviamo in edicola, lo saprebbe, non lo sa perché non lo vuole sapere, semplicemente. Pur leggendo solo Topolino o il giornale Le Ore, però oltre a questo si fa una domanda, visto che fa il giornalista e fa qual è la domanda? Giulietto Chiesa farebbe il giornalista e chiede, uno deve citare le fonti. Che razza io non posso farlo in una trasmissione radio, sei pregato di leggere i miei libri, ne ho scritto parecchi, dove ho messo fonti più che a sufficienza, se leggi i miei libri trovi le fonti, in una discussione radio non si può trovare le fonti, in una discussione radio si dice quello che uno pensa. Ma a te sembra normale, scusami, ti sembra normale che uno arriva alla radio e dice sì, l'11 settembre in realtà sono stati gli israeliani, in realtà è stato quell'altro. Dice, guarda, scusi professor Chiesa, però... No, io faccio non posso fare una cosa del genere. Una cosa del genere si fa in un seminario, Vabbè, però se uno dice che l'ISIS è stato creato anche dagli israeliani, uno dice anche... Ma siamo mazzi. Ma per quale motivo? Ma per quale ragione tutto questo scandalo su Israele? Ma che cos'è? Israele è uno stato privilegiato che può fare quel che cazzo vuole? Ma che cosa Ma dove è mai stato scritto una cosa del genere? Israele è uno stato come gli altri, come gli altri dici? È criticabile per ma le sue azioni che di Stato. Che cosa folle, diavolo è questo scandalo su Israele? Non si può parlare di Israele. Tu dici fa azioni criminali come altri stati. Ma quali azioni criminali? Come altri stati. Ma certo, Israele è un paese santo, naturalmente, benedetto da Dio, che può fare qualunque cosa gli pare, perché intanto c'è sempre la serie dei suoi sostenitori che dicono che non bisogna parlare male di Israele, e invece io parlo male anche di Israele, fermo. Quanto è il caso. Fermo lì, grazie, fermo. La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Andare a prendere la mia ragazza che esce dal lavoro e sentire le sue rotture di coglioni per mezz'ora o la zanzara? La zanzara. Crusani, da quando ascolto la zanzara con il mio ragazzo parlo solo di te e lui è super geloso, siamo al top. Oh ragazzi, Rosario Marciano, detto da me merda no, nel senso di spargitore di merda ovunque, ha detto la sua, ha attentato di Nizza, un altro false flag, come lo chiama lui. Lo schema è sempre il medesimo, immagini sfocate, riprese, video, mosse dalle quali non si evince assolutamente alcunché. Tra queste il video che riprenderebbe un autocarro dirigersi verso una zona oscurata dagli alberi e che si dice abbia investito decine di persone. Non è che si dice, ha investito, ha ammazzato pure i bambini, caro Marciano, anzi caro merda no. È stato realizzato, guarda caso, da un regista teatrale che casualmente abita di fronte alla Promenade. Ricordiamo che in casi precedenti, a partire dall'11 settembre del 2001, per passare agli episodi di Parigi, avevamo tra i testimoni sempre registi, giornalisti, operatori televisivi, eccetera. Osservate la foto che rappresenterebbe il mezzo usato per investire i passanti. Il parabrezza si presenta completamente crivellato di colpi, eccetto che nella zona del guidatore. Strano, vero? A merda no, e state zitto una volta tanto, no? Dov'è? Al bagno? Al bagno. Oddio. Sbrigati, va, che devo chiamare quello là, devo chiamare quello di Fratelli d'Italia, sbrigati. Giambattista, Bergamo, vai. Buonasera, Crociani. Dimmi, dimmi. Senti, allora io premetto, sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Giulietto Chiesa un attimo fa. Cioè? Forse magari che non il problema complotto. L'abbiamo creato noi, dici? Forse però non un complotto, però il fatto di far vedere il benessere in cui viviamo tutti i giorni a quelli che stanno morendo di fame non è proprio così, allora... non è una genialata, però detto questo... Io penso che noi abbiamo una buona intelligence, quindi tra quelli vabbè, dai, forza, qui, vai avanti veloce, non abbiamo una buona intelligence, che cazzo me ne frega a me, dai. Tra quelli che ci sono qui in Europa ce ne sono di buoni e di cattivi. Allora? Cattivi li hanno individuati, ok, bene, se li hanno individuati a quelli, gli metti il braccialetto elettronico, li controlli dove vanno, cosa cioè, fanno. Non ho capito, a chi bisogna mettere il braccialetto elettronico? Non ho capito bene. A quelli che l'intelligence ha individuato come possibili terroristi, li controlli maggiormente, li tieni molto controllati. Scusami, cosa cazzo significa? Quelli sono controllati a prescindere dal braccialetto elettronico. Quando c'è un estremista o qualcuno sospetto viene controllato, punto e basta. Di che stai parlando? Ma se gli metti il braccialetto elettronico, ma dov'è? Chi? A tutti gli islamici bisogna metterlo, a tutti gli islamici, a quelli che sono, a solo a quelli che sono indiziati pesantemente. Vabbè, come Giambattista, questo per esempio, come questo per esempio, questo chi? È indiziato pesantemente, ma cosa chi? Cana. Ma non è vero, come non no? È... No, sembra di no, non dire cazzate. E quelli su là che hanno fatto a Parigi erano indiziati. Paolo anche da Napoli. Paolo da Napoli. Ciao Giuseppe. Dimmi. Giuseppe, ascoltami un attimo. Io non sono mai stato razzista, ma però, ora lo sono. Ma con ora chi? Lo... Con chi sei no, razzista? No, nei confronti degli islamici. Perché mi devi, a prescindere dall'ISIS o a prescindere dalle cellule varie, ok? Perché questi attentati li fanno sempre gli islamici? Perché non li fanno gli europei o i sudamericani che pure se stanno disperati allora, voglio leggere... ridono e ballano? Che cavolo dice Giulietto Chiesa che noi stiamo bene, allora questi fanno gli attentati perché noi ci vedono che stiamo bene? E i sudamericani allora perché stanno buoni, ridono e ballano pure se stanno disperati? Pure questo è vero. Allora, Enrico Mentana scrive: muoiono per uccidere e noi non lo capiamo. Cosa c'è di meglio della vita? La risposta terribile che si danno è fatta di vergini e di paradiso. Ma è possibile che esista una religione che garantisce il paradiso a chi uccide dei bambini in suo nome? Cioè, alla fine la follia è questa, che esiste una cazzo di religione che garantisce il paradiso a chi uccide dei bambini in suo nome. Ha ragione Mentale in questo caso. Non esiste una sola religione, si chiama Islam. You

che ha detto Gianfranco Fini. No, lei ammira Mussolini o no? Io sono uno che ammira Mussolini. È stato un grande statista, sì o no? Riconosco a Mussolini di aver fatto tante belle cose per l'Italia. Bene, è meglio di tanti di tutto quello che è venuto dopo? Ma guardi, quando si dice che abbiamo 60 anni di malgoverno, sì, lo diciamo sì. Tutti nella nostra memoria collettiva che i 60 anni partono dal 45 in poi, sì, non so sì. Perché non dicono 80 anni di malgoverno, dicono. Quindi credo che dire che prima non c'è stato malgoverno... Perché prima consideravano il ventennio una dittatura. C'è la dittatura, era una dittatura però. Questo qui abbiamo detto. Era una dittatura, sì o no? No, vorrei capire solo una cosa e poi basta. Era una dittatura, sì o no? Ma secondo me era un regime autoritario che aveva la condivisione di tutta la popolazione. Non italiana. Era una dittatura, non lo definiresti una dittatura? Non la definirei propriamente una dittatura. Una dittatura. Quella nazista era una dittatura, sì. Quella fascista non era una dittatura. Come si chiama questo qui, abbiamo detto? Si chiama Francesco Minutillo. Ascolti. Minutillo. Credo che lei abbia aggiunto, io credo capito. Che... Siamo Cruciani e Parenzo. Cruciani, attento, ma... Sì, va bene, chi, la ringrazio. Chissà. Prego, arrivederci. La saluto. Prego, buonasera. Prego, arrivederci. In tutti i discorsi che fai hai la capacità di stravolgere la logica. Ma che c'è in testa? E criceto sul tapirulan. La Zanzara. Hey Joe, get up and go. Wouldn't like to tell it twice. Ci tenevo a dire ai nostri fratelli musulmani, nonché mettendo in coppia David Parenzo, che non è la destra a essere xenofoba, sono loro che adesso hanno rotto il cazzo. Dobbiamo lavorare per l'integrazione. Questo ho sentito dire oggi in TV. Ma questi non si vogliono integrare. Sono un popolo di bugiardi, sono fedifraghi. Lo sanno perfettamente gli israeliani chi sono costoro. Questi danno la parola, la mantengono solo con i loro fratelli. Questo lo so per certo. Loro ridono di questa cosa e a te ti dicono che invece gli dispiace. Basta. Crucia, hai rotto il cazzo con la Zanzara. Noi vogliamo sentire la pubblicità. La pubblicità e il traffico. La Zanzara. Caro David, l'ho già detto all'inizio della trasmissione, quello che ci distingue dalle bestie islamiche e in generale che ci distingue dall'Islam è la grande libertà sessuale, la grandissima libertà sessuale. E allora ti ho chiamato un signore che ha scritto un libro, si chiama Sex Advisor, le vere recensioni dei clienti italiani di escort e trans, praticamente quelli che tu chiami miserabili. Beh, quindi la guida dei miserabili, ovviamente c'è la guida della Michelin, dei ristoranti, c'è anche la guida dei migliori miserabili d'Italia sostanzialmente. Ma beh, tu così. La vuoi definire così, definiscila così, sì. ma a me non mi interessa come la definisci tu, ma fatto sta che sono le recensioni praticamente delle puttane, cioè sono i clienti che nei siti scrivono le recensioni dei bordelli, delle puttane. Uno schifo assoluto. Ma che è uno schifo assoluto? Perché qui non solo usano il corpo delle donne sfruttate, ma in più dicono quale corpo è migliore. Certo, perché è una guida per gli altri. Cioè, se tu vuoi andare a puttane in un posto o vuoi frequentare una prostituta, c'è uno che ti dice: no, guarda, a Torino, e ti dicono a Torino sul lungo. Esatto, quella fa questo, quella fa i pompini, quella fa i pompini così. Ma che schifezza, è una cosa fondamentale. Antonio Armano è l'autore di questa preziosissima guida. Antonio, come stai? Bene, bene. Ciao, ma di dove sei tu, Antonio? Ciao, Giuseppe. Luca, io sono originario di Voghera. Di Voghera, come la casalinga di Voghera, insomma, no? Sì, però prima della casalinga era la città delle 3P, cioè puttane, pasti e peperoni. Capito, Parenzo? Cioè... Sì, il manicomio l'hanno chiuso e i peperoni si sono estinti. Lei ha una vita felice, cioè ha famiglia... Ma saranno cazzi suoi. Hai una vita felice, Antonio? Io dunque ho una vita mediamente infelice come tutti, ma questo indipendentemente dal fatto di avere famiglia, di una amica, una compagna alla quale regalare dei fiori, dunque, oppure è un miserabile. In questo momento sono single, però ho avuto anch'io come tutti delle fidanzate. Cioè non ti consideri miserabile, soprattutto non consideri miserabili chi va a puttana, immagino, no? Ma no, perché dunque, perché sostanzialmente diciamo più o meno ci va, cioè ci va una grossa fetta di persone, magari non sempre, magari ci va occasionalmente. Però Antonio, la chicca maggiore, la chicca più bella di questo libro, quale? Io l'altra volta ne ho citate alcune, no? Cioè quella che ti ha fatto scompisciare dalle risate e che ancora ti fa scompisciare dalle risate, qual è? Ma dunque, più che scompisciare dalle risate, la cosa che mi ha colpito di più, cioè è il lato umano, no? C'è uno scambio di battute tra gli utenti di uno di questi forum che cercano notizie di un trans muto. Di un trans muto, perché questo trans è quello che, diciamo, era molto gettonato in quanto era quello che sapeva ascoltare meglio di tutti. Questo trans muto a un certo punto scompare e tutti sono disperati, dicono dove è finita. A un certo punto compare un utente del forum che dice: ah, io l'ho incontrata e, diciamo, mi sono parlato con lei e si è tirato giù i calzoni o alzato la gonna, non mi ricordo, e oltre ad essere muta si era pure fatto tagliare il pene. E beh, allora che serviva? No, infatti, questo utente dice: io sono solo attivo, quindi teoricamente non me ne fregava niente, però questo trans voleva che lo infilassi questa specie di ferita della carne. Ah, dell'anima. Oddio Parenzo, oddio che orrore! E allora? Ma io non ce l'ho fatta. Capito? Davide, il tuo commento qual è a questa meravigliosa storia del transmuto? Scusa. Parlo con grande tranquillità. Questo è l'Occidente, però, l'Occidente della libertà. Questo è lo schifo umano, è proprio putrido, lurido, proprio un'incitazione alla prostituzione. Però, un inno alla prostituzione. Tu stai dicendo che lui dovrebbe essere quasi arrestato per istigazione alla prostituzione? No, arrestato assolutamente. Perseguito, no. Però, perseguito per istigazione alla prostituzione. Dovrebbe considerarsi moralmente sporco, ma proprio anche che sta facendo un lavoro anche eticamente sbagliato. Scusa, Armano, però la novità è un'altra. Armano, la prima volta che ha scopato in vita sua, cioè la prima volta che ha fatto l'amore, direbbe Parenzo, è stato proprio in un bordello. Cioè, capito Parenzo? Anche questo c'è. Sì, e lo prendiamo come modello. No, soltanto in una trasmissione della Radio 24, la Zanzara, viene preso a modello un signore che magari si sia lavato le pippette a casa, non lo so, comunque che scusa, dove è successo Armano? Chiaramente un maniaco. Antonio, dove è successo questo fattaccio? No, dunque, è successo quando eravamo dunque in gita a quarta liceo, gita a Vienna, e diciamo siamo finiti, come spesso accade, diciamo, in uno dei quartieri più economici di Vienna, peccato che fosse anche un quartiere a luci rosse. Stavo tornando di sera in questa con i miei amici, con i miei compagni di classe in questa via, e vedo questa cavallona bellissima. Suppongo dell'est Europa, però non lo so. Quindi faccio sono un po' interessato, le chiedo quanto vuole di qua e di là, poi vado un attimo in albergo a prendere i soldi, faccio per uscire, il prete ci blocca, c'era un prete un po' il prete bigotto, ma il prete che vi portava in gita? Il prete che ci portava in gita. Allora? Era un prete un po' bigotto, un po' all'apparenza, che poi magari voleva andarci lui. Che cosa succede praticamente? Quindi niente, non riesco ad andarci. La sera dopo non mi faccio fregare, mi prendo già i soldi e vado nel bordello. E per la prima volta hai un rapporto sessuale in vita tua, però con una puttana. Per la prima volta. Ma ti sei pentito o no? Assolutamente no. Ma poi sei diventato un po' pappone anche, o sbaglio? Non pappone, no, nel senso, poi però cosa è successo? Che esco da questo bordello, vado in una stanza dall'albergo, tutto fumosa, dove c'erano i miei compagni di classe che si lasciavano delle canne, l'argomento di cui stavano parlando era questo: chi l'aveva già fatto? Quindi mi chiedono: ma tu Armano l'hai già fatto? E io dico: sì, certo, l'ho già fatto. Quanti anni? 17, 18? 17. Allora? L'ho già fatto, certo. E un mio compagno di classe, che diciamo sapeva più o meno tutto di me, dice: no, non è vero, non l'ho ancora fatto, me l'avrebbe detto, bla bla bla. Allora lo prendo da parte e gli dico: pirla, invece guarda che 5 minuti fa, eccetera eccetera. Allora anche lui voleva consumare con un suo amico, porto giù in strada davanti a questo bordello, e alla fine non si decidevano ad andare. Dico: vabbè, se non vi decidete vado io per la seconda volta. Allora si decidono e vanno prima uno, poi l'altro, poi piano piano si forma una specie di processione dai piani di questo albergo, in cui due classi di liceo hanno la loro prima notte felliniana di iniziazione al sesso attraverso questa, diciamo, questa classico bordello. Dovevi prendere la mazzetta, secondo me, lì. Comunque Parenzo, è curioso, cioè, la tua prima volta quanti anni è stata? La mia o quella del signore? No, la tua, la sua se ha 17, la tua la prima volta quanti anni? Oh, guarda, potrebbe essere... sì, forse 18. Però non 17. Puttana, non con una puttana. Ragazzi, ma state scherzando? Ma perché? Qualche c'è di male? Cioè, stai dicendo che questo è un coglione praticamente? Ragazzi, no, che un coglione no. Mi fa anche solo incontrarlo mi darebbe, cioè uno che perde la virginità, questa cosa meravigliosa, questa cosa stupenda, con una prostituta. E beh, qual è? Beh, no, ma tanta gente la fa. Non senti la voce che è tranquilla, perché avrei dentro tante cose da dire, tante, ma no, tante. Non posso. È l'Occidente, arrabbiare. Bellezza. Ciao Antonio. Vedi, è la porcheria. Ciao la Antonio, porcheria. Ciao, ciao Antonio. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Siete veramente pietosi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want action? Luca! Peppino! Ma dove cazzo sei stasera? Dove sei Peppino, stasera? Peppino, a Cortina, con il rito. Dove sei, a? A Cortina, a Cortina. A Cortina, sì, ma a che Venezia, cazzo fai il giro dell'Italia? Per le di Venezia e ora a Cortina, sai che ti viamo. Sì, ma parla meglio, più forte, non mi far fare la parte di quello che... Dai, su. Per le calli di Venezia ieri... Non si capisce un cazzo, Filippo da Modena, dai. Come non si capisce? Non si capisce, Filippo da Modena, dai, non c'è, Francesco da Napoli, dai. Ciao Giuseppe, senti, dimmi, dimmi. Molto velocemente, prima di tutto fantastico l'intervento di quello di prima, perché io sono completamente d'accordo sul fatto che uno dovrebbe proprio iniziare il sesso con una professionista, Zobeide, il garofano russo. Vabbè, non è obbligatorio, ma... non è obbligatorio. Non è obbligatorio, io lo farei su base volontaria, però capito, è una lezione di vita fantastica, e poi sai quanti si salverebbero da matrimoni che magari ci vanno solo perché gliela dà? Lascia stare. Vabbè, ma queste sono robe vecchie. Ma chi è che oggi si sposa per quel motivo là? Dai, non dici. Vabbè, dici... vabbè, lascia stare. Vabbè, quello lascia è stato iniziato al sesso da una prostituta a 17 anni. Ma mica è una regola, Cioè, No. Però è certamente, secondo me, potrebbe essere molto interessante per tanti. Vabbè, per allora, tanti. Francesco, che volevi dire oltre a questo? No, io ti volevo dire il fatto che, diciamo, ritornando sul serio, gli imam, io non vedo come... Io vedo che questi non fanno un cazzo, gli imam, guarda. Io credo che questi qua dovrebbero... Cioè gli imam cominciare... che intendi? Gli imam italiani, dici? Sì, no, quelli no, scusami, ho detto imam, i musulmani, diciamo, quelli... Non quelli fanno niente dal punto di vista, sono complici di quelli, diciamo, di quegli estremisti? Non necessariamente sono complici, non sto dicendo... Ma allora che vuoi dire? Spiegami. Voglio dire che loro ideologicamente dovrebbero cominciare a fare un bombardamento mediatico sul fatto che questi soccoglioni... che il come si chiama il califfo è la rappresentazione del demonio sulla terra, o quello che è da un punto di vista musulmano, dovrebbero dire che non esistono paradisi, che dove uno se muore trova le vergini e tutte queste puttanate qua, cioè loro dovrebbero prendere delle posizioni molto molto più radicali questa volta, per evitare che i mentecatti, perché questi sono mentecatti che vanno a fare queste cose, ed è dimostrato, no, che sono mentecatti, non so mentalmente proprio labili, perché altrimenti io non me lo spiego. Cioè dovrebbero dire chiaramente che al-Baghdadi è un coglione, che tutte queste cose sul paradiso sono tutte delle puttanate. Non solo è un coglione, ma è proprio la rappresentazione del demonio sulla terra, è il contrario di quello che dice di essere. Loro dovrebbero fare un discorso proprio a livello terra-terra, cioè questi qua che vanno ad ammazzarsi, siamo a livello del 1500, cioè non ci puoi parlare, non puoi ragionare da un punto di vista, che ne so, delle leggi. Tu stai arrivando, a una conclusione molto chiara, cioè la conclusione molto chiara è che in realtà l'Islam è incompatibile con la democrazia, questo è il punto fondamentale. Cioè, cosa che Telese per esempio non pensa. Io penso che sia incompatibile con la democrazia l'Islam, cioè, sia chiaro. Io penso che l'Islam sia incompatibile con la democrazia. Cioè, questo è evidente. Telese, dove sei? È sempre a Venezia? Il wahhabismo è incompatibile con la democrazia. Sì, perché invece gli altri no. Gli altri invece... Ma no, ma tu l'Islam è come se uno ti paragonasse a un crociato, dicesse che Cruciani è come un crociato del 500. Sono una setta. Sì, perché invece gli altri, quelli cosiddetti moderati, invece... C'è tutto, i moderati, gli estremisti... Sì, i moderati invece hanno un'idea compatibile con la democrazia. Dentro. Sì. Ma c'è tutto dentro. Sì. Abbiamo noi con la democrazia abbiamo compatibile persino l'assassino di Emmanuel, quindi... Vabbè, ma cosa c'entra quello? Dai, cosa c'entra? Dai, non è una cazzata. Ma se siamo seri, dovremmo dire che questo governo di autoproclamato occidente mondiale dovrebbe radere al suolo l'ISIS, cosa che non ha ancora il coraggio di fare. Quindi qui tutti a concionare contro gli islamici che sono in questo paese e nessuno è ancora riuscito a mettere in piedi una coalizione per radere al suolo l'ISIS. Fermo là. Allora ragazzi, qualche cosa di ieri. Allora, episodio di fermo Taormina contro Parenzo, vai. Questo è uno dei tanti immigrati, dei moltissimi immigrati violenti, se è vero che c'è stata l'aggressione. Hai statistiche in mano? Ma ci sono statistiche dell'ufficio studi Taormina? Recenti statistiche, ma pare statistiche? Che l'ufficio studi di Carlo Taormina in proporzione numero di indagati extracomunitari. C'è il professor Carlo Taormina, il quale ha 40 anni di esperienza e 40 anni studi. Di cattedra, in base ai quali fa queste valutazioni. Lei è un povero imbecille. Dopo l'ufficio studi della Confindustria di Banchi d'Italia c'è l'ufficio studi Carlo Taormina. Tutti sono stronzi come lei, tutti sono stronzi e ignoranti come lei. Vabbè, ha capito qual è il problema? L'ufficio studi Carlo Taormina dopo Banchi d'Italia. No, c'è un avvocato con 40 anni di esperienza e 30 anni di cattedra. Studi Euris. Lei è un imbecille. Mamma mia. Allora, aspetta, Carlo, scusa un attimo, allora, c'è una recente statistica, metti un po' più vicino al micro. Scusami, non mi far parlare con quelli. No, aspetta, sto parlando. Ma come si permette? Aspetta. No, mi permetto, lei è un imbecille. Ma come si permette? Imbecille. Ma come mi si permette? Esattamente in risposta di quello che lei dice nei miei confronti. Quindi non mi rompa i coglioni per cortesia e la smetta. No, scusi, chi parla? Perché guardi, con quel testa di cazzo di Parenzo, non voglio parlare. È un po' nervoso l'avvocato professore, eh? No, è un po' nervosetto. Lei è un po' nervosetto. Lei è un po' nervosetto. Io sono tranquillissimo, lei è un po' nervosetto. Scusa, professore. Ma guardi, si vede, lei è scrazzato. Ma forse riscosso qualche parcella. Lei è una persona... È un po' nervosetto, mi pare. Lei è invece un po' scrazzato. È nervosetto e sgraziato, il professore. Che c'è? No, io sto bene. C'è stata qualche condanna, una sentenza definitiva di qualche suo assistito? Che c'è? Io sto benissimo. Sto benissimo. L'importante è non sentire un testa di cazzo come lei. Beh, io ho chiesto indagini dal procuratore della Repubblica perché voglio capire. Ma lei che titolo la Taormina chiede indagini? Lei si faccia i cazzi suoi, non mi rompe i coglioni. Ha capito? La smetta che lei è un buffone. Ma e quindi non può parlare. Dice, io non chiedo indagini, denunzio. Lei è un imbecille. Ma che denuncia? Lei è un imbecille. Ma perché? Lei è un imbecille. Perché? Buffone. Perché bisogna fare indagini su Don Albanese? Spettacolare Taormina versus Parenzo. Adesso però, caro Luca, ti faccio sentire una cosa, perché sai che è morto Provenzano, no? Sì. È morto Provenzano. Allora, l'altro giorno cosa ho fatto? Mi sono preso la lista dei Provenzano, sull'elenco telefonico, quelli che ci sono. La maggior parte sono tutti vecchi, dei 90 anni, 80 anni, a Corleone, e ho fatto le condoglianze della grande famiglia Provenzano, cioè condoglianze per la morte, Associazione Amici di Corleone. Siamo incappati nella cugina di Provenzano. Senti, la cugina di Provenzano, se non sbaglio. Pronto? Sì, buonasera, Associazione Amici di Corleone. Sì? Sì, buonasera, volevamo fare le condoglianze. Grazie, ma di chi mi parla? Del signor Binnu, Bernardo. Ah, Bernardo Bucchiere, sì. Ma è suo parente, era? Dice di mio cugino. Ah, è suo cugino? Sì, è cugino. Ma lei come lo considera suo cugino? Una brava persona, una persona... Ma almeno io, allora, ero una brava persona, ora non ci so dire niente. Beh, ecco, era considerato il grande capo della mafia, uno dei grandi capi. Sì, ma non lo so. Lei non si è mai vergognata di avere come parente il signor Bernardo Provenzano? No, vergogna no, perché prima di tutto non siamo una famiglia noi, che lo possono dire tutte onesta e tutte no per dirlo, perché... Ma lei lo sa che ha ammazzato un sacco di gente il signor Bernardo? O non ci crede? Dicono così, ma io non ci posso mettere... Lei non ci crede? Lei non ci crede? No, non lo so, perché penso... che non lo farebbe nessuno tutte queste cose, ma intanto che... Scusi signora, ma secondo lei la mafia esiste? La mafia esiste, ma tempo fa mi pare che c'era questa, insomma, di più si sentiva dire questa mafia. Una volta c'era, dice lei. Una volta, ma ora mi pare che siamo stati un poco tranquilli da tanto tempo. Ma scusi, ma era in carcere, comunque qualcosa deve aver fatto per essere in carcere, signor Provenzano, no? E che ne so io? Lei ci crede che era il capo della mafia? Ma no, non ce l'ho possibile, perché ti dico che non ci credo e non so niente. Non sembra... Dico che ci credo e non so niente pure lo stesso. Io non so niente completamente, ma di più... più di questo. Ma comunque mi sa che era una cattiva persona. Dicono che era una cattiva persona, molto cattiva, molto cattiva. Non sembrava però così. Non sembrava così. Comunque, anche signora, sì. Condoglianze. Grazie. Che ti posso dire? Non è che io condoglianze. Non ero che parente. Ma lei si vergogna un po' di questa parentela? No, perché mi vergognare? No, io non mi vergogno. Vabbè, ma il nome provenzano associato alla mafia, a assassini, violenze, gente ammazzata. Lui, noi che c'entriamo? Completamente. Noi non siamo di queste cose. Niente, niente. Niente, completamente. Niente, completamente. Vabbè, signore. Non esistono queste cose. Arrivederci, signore. Arrivederci. Arrivederci. Buona giornata. Poi uno si chiede perché per tanti anni. No, ma dico, uno si chiede perché per tanti anni poi uno è rimasto lì, cioè quello è stato latitante, eccetera, no? La roba è che... onesta, per bene, carina. La cugina. Allora, Marcello da Catania. Buonasera. Vai, dimmi. Io volevo parlare con un pezzo di merda di Parenzo. Non c'è il pezzo di merda di Parenzo, non c'è. C'è un altro pezzo di merda, magari che è telese, però. Cioè, no, un altro pezzo di merda per lui, dico. Cioè. Io parlo con te, Giuseppe. No, ma parla pure con telese, come vuoi. Parla. Io avevo io una soluzione per il fatto di Nizza. Qual è la soluzione? Dimmi. Siamo tutti in attesa di una soluzione, magari tu hai quella giusta. La soluzione finale. Qual è la soluzione? Finale. Di fare come fanno in Israele, quando passa un palestinese ne ammazzano 1000, e così fanno, dovremmo fare noi. E dunque cosa dovremmo fare concretamente? Ogni volta che succede un fatto di questo, facciamo per 100 volte li ammazziamo di ma questi, non è vero insomma. Che in Israele fanno così. A parte che non è vero, ma fanno così. Quindi stai dicendo una sciocchezza. Non ho capito, Marcello. No, ma è interessante questa cosa qua. Marcello, allora tu dici. Se un attentato di questo qua fosse successo in Israele. Almeno Adolfo Netanyahu ne avrebbe uccisi 10.000. Adolfo Netanyahu è bellissimo. Però Marcello, voglio dire, cioè, secondo qua siamo a risico. Dai. No, aspetta, secondo Marcello, noi dovremmo ammazzare 100 musulmani per ogni europeo morto. Questa è la cosa. Come fa lui Adolfo Netanyahu in Israele? Sì, ma chi ammazziamo noi? Cioè, adesso, per esempio, i franceschi dovrebbero ammazzare 8.000 tunisini? Cioè, siccome ne hanno ammazzati 80. 8.000 islamici. 8.000 presi così loro, a caso. Come fanno loro? Ma ho capito. Dire a Parenzo, perché Parenzo non ne parla mai di queste cose. Ma no, non è che non ne parla, perché gli volevi dire in faccia Adolfo Netanyahu a Parenzo. Perché lui non ne parla mai. L'altra volta una studentessa di 18 anni che stava prendendo con le mani in tasca l'hanno uccisa subito. Quando hanno ucciso i 3 militari israeliani, lui ha fatto una strage in Palestina. O se lo dimentica, Parenzo purtroppo non c'è, non posso dire. Non gli puoi dire che è un pezzo di merda. Tu gli volevi dire sei un pezzo di merda. No, vogliamo concludere così con questo ascoltatore. Io poi devo dire due cose. Ma allora, Marcello, due punti. Parenzo è un pezzo di merda. È un pezzo di merda, benissimo. Ragazzi, caro Telese, è ultima puntata della stagione. No! Allora, aspetta, fermo. Devo ringraziare Riccardo Poli, Riccardo Buccero, Valeria Bernardi, Leonardo Sirigato, tutti quelli che questa stagione hanno fatto grandissima questa trasmissione. Che vi devo dire? Boh, non c'ho un cazzo da dire in realtà. Cioè, finiamo prima per motivi miei. Tutti mi chiedono che fate, torni, non torni. Che cazzo ne so, che mi frega in questo momento? Torno, non torno, non me ne frega un cazzo. Mi frega di voi, di chi ci sta ascoltando, in qualche modo lo spirito resterà, no? Cioè, da qualche parte questo spirito resterà, lo spirito straordinario di questa trasmissione, perché lo spirito è quello che conta, cioè la libertà è quello che conta, poter dire sempre quello che uno pensa, sempre, senza ipocrisie. Ragazzi, ci vediamo, ciao. Cruciani, ma va suca! Parenzo, ma vai a cagare, vai! Zanzarosi, andate a fare in culo! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.